prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nei giorni in cui le istituzioni europee si riuniscono per l'ennesima volta sul tema profughi, l'emergenza continua a crescere e le situazioni di disagio ad aumentare in maniera notevole un po' in tutta l'Europa sud-orientale, per non parlare poi della situazione in Siria, in Turchia e in Grecia. Ben ritrovati da Mirko Cavallin. La Commissione europea, appunto, è chiamata ad approvare il nuovo meccanismo europeo per gestire la crisi e un piano di aiuti umanitari in favore della Grecia. Rimane però di fronte ai nostri occhi, a meno che non li abbiamo girati da un'altra parte, la tragedia umanitaria con migliaia di persone in fuga dalla guerra al confine tra Grecia e Macedonia. Anche Papa Francesco nell'Angelus del 28 febbraio scorso era intervenuto con parole molto forti. La mia preghiera sempre presente è il dramma dei profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane, in particolare la Grecia. Gli altri paesi che sono in prima linea stanno prestando ad essi un generoso soccorso che necessita della collaborazione di tutte le nazioni. Una risposta corale, ha detto ancora il Papa, può essere efficace e distribuire equamente i pesi. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati. Anche la tregua che è in atto da alcuni giorni, proprio dalla fine di febbraio in Siria, può contribuire alla nascita di corridoi umanitari proprio per quelli che sono rimasti lì e non sono riusciti a fuggire. La Grecia, come sapete, è sempre di più tra l'incudine e il martello, tra la sua crisi economica che dura ormai da 8 anni, il flusso migratorio che la sta trasformando nel Libano d'Europa, un vero e proprio magazzino di anime. Questa è l'espressione che aveva usato il vice ministro greco per l'immigrazione Yannis Musalas. Ci sono 120.000 persone arrivate dall'inizio dell'anno, quindi in 60 giorni 2.000 persone al giorno. Questi sono i dati dell'UNHCR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Metà di questi, circa 60.000, sono siriani in fuga dalla sanguinosa guerra civile. Le autorità nazionali e locali della Grecia cercano di fare il possibile per ridistribuire i tanti profughi. L'area tra le più delicate, ne abbiamo viste in questi anni diverse, appunto siamo partiti da Lampedusa già nel 2011 e poi Lampedusa è stata a Prodo, è ancora a Prodo, ma fa meno notizia rispetto a Idomeni, confine greco-macedone. 5 nuovi centri di accoglienza allestiti dal governo greco per le migliaia di persone bloccate sul suo territorio dopo la chiusura delle frontiere dei paesi della cosiddetta rotta balcanica. Ne avevamo parlato proprio nelle scorse settimane. Anche l'esercito ha allestito tendopoli in un ex aeroporto militare in un campo vicino alla frontiera con la Macedonia. Nei prossimi giorni queste saranno ulteriori strutture pronte per accogliere i profughi. Altri 3 accampamenti militari nella stessa zona, non utilizzati dall'esercito, saranno trasformati in centri di accoglienza. Anche ad Atene, la capitale, la situazione però è drammatica. Migliaia di profughi sbarcano ogni giorno al porto del Pireo, il porto di Atene, si accampano nelle piazze, nei parchi, creando forti disagi alla vita di tutti i giorni dei cittadini. Nonostante questo, però, i greci, che sono economicamente più in difficoltà d'Europa, continuano a testimoniare una grande solidarietà. Ogni giorno persone distribuiscono viveri, vestiti, giocattoli, coperte a migliaia di profughi. Ricorderete anche le scene che sono viste nelle stazioni ferroviarie tedesche, austriache piuttosto che italiane nelle scorse settimane. La Caritas greca, con l'aiuto della Caritas italiana e di altre Caritas europee, è ancora una volta in prima linea per questa emergenza. Ad oggi, dal settembre scorso, sono stati distribuiti oltre 80.000 pacchi alimentari, 40.000 kit igienici. Inoltre circa 8.000 persone hanno ricevuto generi di prima necessità tuta, i vestiti, le coperte, gli impermeabili. Pensate a quelli che fuggono non potendosi portare via tutto ciò che avevano in casa, ma almeno l'indispensabile. Ovviamente poi nel corso del viaggio sono cose che magari si perdono, vanno deteriorandosi. Circa 4.000 persone, anzi di più, sono state accolte nei 3 alberghi che sono gestiti dalla Caritas greca tra l'isola di Lesbo e Atene. Più di 3.000 profughi hanno ricevuto un servizio di ascolto e di orientamento. Questa solidarietà, appunto di strada, diciamo così, stride con le chiusure di alcuni stati che respingono, addirittura con i lacrimogeni, famiglie intere e centinaia di bambini. E questa solidarietà stride anche con l'approccio arbitrario degli hotspot voluto dall'Unione Europea. Come già la Caritas ha denunciato con il tavolo nazionale asilo, a chi non viene permesso di presentare domanda d'asilo viene notificato un decreto di respingimento senza prevedere alcun tipo di assistenza. Sostanzialmente arrangiatevi, ma non state qui, andate da un'altra parte. Questa è un po' la prospettiva dagli ultimi comunicati, appunto, che sono arrivati da Caritas italiana. Io ricordo che sul sito caritaspadova.it c'è un'apposita sezione dedicata proprio ai profughi, con ulteriori approfondimenti proprio sul tema dell'immigrazione, a cui il settimanale diocesano La Difesa del Popolo dedica proprio uno spazio specifico, ricordando anche appunto i corridoi umanitari che sono stati benedetti in qualche modo dal Papa, e poi la richiesta già resa nota lo scorso numero della Difesa di Padova accoglie più chiarezza sull'iter di riconoscimento dello status di rifugiati, perché poi tante persone appunto rischiano di rimanere proprio senza documenti, e senza documenti non si può fare nulla, non si può cercare lavoro, non si può davvero letteralmente fare nulla. Ripeto, caritaspadova.it, c'è la sezione profughi raggiungibile dalla home page per approfondimenti ulteriori, domande e soluzioni di dubbi che molte persone hanno proprio in questo periodo. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.